Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 13 marzo 2015. La telepresenza mobile rivoluziona la videocomunicazione. La svolta è arrivata negli ultimi 5 anni e ha preso il nome di telepresenza mobile. Il settore della videocomunicazione è passato tra il 2010 e questo 2015 da un fatturato globale di 2,3 miliardi di dollari ad un giro d'affari di 5,5 miliardi, in linea con quanto previsto da Abbey Research. L'utilizzo di questa tecnologia su device diversi sta infatti permettendo una felice integrazione con il boom del settore mobile. A fare da traino sono in particolare le nuove applicazioni per videoconferenza su tablet e smartphone. Le opportunità garantite dalla telepresenza saranno ampiamente sfruttate anche durante l'Expo, che aprirà tra poche settimane. Fin qui la notizia del 13 marzo 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Così Fabio Florio, responsabile di Cisco per Expo 2015, parla della telepresenza al microfono di Enrico Pagliarini. La telepresenza, molti dicono che è l'evoluzione della videoconferenza, secondo me è sbagliato definirla in questo modo. La telepresenza è un'esperienza immersiva, vuol dire fare un meeting virtuale come se stessimo facendo, come noi in questo momento, un meeting reale, perché l'altissima qualità della comunicazione video audio abbinata a vedere le persone, per esempio, a grandezza naturale, consente di realizzare veramente dei meeting come se fossero meeting fisici, anche a chilometri di distanza. Questo è come è nata la nostra soluzione di telepresenza. Noi la stiamo diffondendo anche per rendere disponibile su un taglio meno esigente in termini di sale predisposte, eccetera. Infatti abbiamo ormai tutta una serie di soluzioni che consentono di fare telepresenza anche da sale piccole, uffici o addirittura da casa. Con Expo, per esempio, ci spingeremo anche a quella che è la telepresenza mobile e quindi poter utilizzare un sistema mobile che tipicamente può essere alloggiato in ufficio sopra una docking station, una sorta di videotelefono, prendere questo sistema, questo tablet che è una telepresenza mobile e entrare in telepresenza tra sistemi di questo genere o con sale di telepresenza. E questa è l'evoluzione della videocomunicazione. Un'ulteriore evoluzione nell'ambito sanitario è abbinare queste qualità della videocomunicazione e della telepresenza con funzionalità e apparati medicali che tipicamente troviamo quando andiamo a fare un esame o una visita preventiva piuttosto che una visita dal nostro specialista. Abbinando queste due soluzioni è possibile fare visite specialistiche a distanza, accedendo a specialisti che tipicamente non stanno molto lontani da casa mia e evitando lo spostamento dei cittadini, delle persone, evitando il traffico, evitando l'inquinamento e riducendo i costi della sanità. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.